e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Oggi un Cuore Denari in versione assolutamente speciale. Saremo insieme solo per circa un quarto d'ora in attesa della conferenza stampa del Premier Matteo Renzi, che la nostra redazione seguirà in diretta, a partire chiaramente dall'inizio, con uno speciale per monitorare questo risultato elettorale che ha una ripercussione in borsa incredibile. Per cui in accoppiata con Nicoletta Carbone, che salutiamo, torniamo regolarmente domani. Per adesso 10 minuti dedicati all'approfondimento sull'andamento dei mercati finanziari. Già da stamattina vi stiamo accompagnando con il resoconto della reazione finanziaria al risultato politico. Per Milano più 2,5% sul FTSE MIB, ma vanno bene anche le altre borse. Oggi Londra è chiusa per festività e ricordo che saranno chiuse anche le contrattazioni a Wall Street perché è il Memorial Day. Per quello che riguarda le altre borse europee, anche Parigi è positiva, più 0,3%, e forse anche questo quadro positivo gli operatori non se lo attendevano, mentre Francoforte sale dello 0,90%. E ha toccato questa mattina il suo nuovo massimo storico. Cosa succede? Perché questo brindisi così incredibile? Cosa ipotizza il mercato finanziario che possa scegliere a questo punto la politica? Ne parliamo con due ospiti che ci terranno compagnia per questo quarto d'ora insieme. Roberto Brasca, vicepresidente di Acome ASGR, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E saluto e ringrazio per essere con noi anche Salvatore Gazziano, responsabile strategie di investimento di Soldi Expert. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, anche se la durata del nostro spazio è più ridotta, avete tempo, come sempre, di esprimere i vostri commenti sull'argomento di oggi. 800240024, il numero verde a disposizione degli ascoltatori per gli interventi in diretta sullo scenario economico-finanziario che si apre a questo punto, sul perché il mercato brinda in maniera così forte, soprattutto in Italia. Se volete scriverci invece potete farlo al 349-238-6666. O su Facebook o su Twitter, avete ogni canale possibile appunto per interagire con noi. Salvatore Gazziano, un commento ti chiedo a metà tra il giornalistico e il, come dire, l'esperto di temi finanziari. Come leggi questa reazione di Milano questa mattina? Avevamo sicuramente, si erano assolutamente sottovalutati i risultati che il PD avrebbe potuto raggiungere a questa competizione elettorale, che è andata sicuramente un risultato che sicuramente andato ben al di là di ogni attesa, lo dicono ormai tutti, lo stiamo commentando da questa mattina, ma non è un po' esagerato questo più 2,5%? Ma sicuramente Piazza Affari ha reagito in maniera molto forte a fronte di un risultato sicuramente in attesa agli stessi vertici del PD, che sicuramente anche all'interno del PD mettono in discussione tutta una serie di correnti. Ma io credo che Piazza Affari, c'era una dichiarazione che di qualche giorno fa che del famoso profeta dei ribassi e dei rialzi, dei ribassi e rialzi, Rubini, che diceva che nel caso di vittoria, di avanzata forte del Movimento 5 Stelle, avrebbe tremato tutto l'euro e i tassi sarebbero saliti. Quindi credo che ci sia da parte dei mercati finanziari, perché come mi hai detto dalle performance di questa mattina a Piazza Affari, vi è da parte, questo lo dico in maniera non soggettiva ma oggettiva, da parte di diversi operatori e investitori l'idea che si è allontanato un pericolo che era quello di mettere in discussione troppo le politiche economiche e finanziarie in Italia, con una maggioranza che comunque a questo punto non è solo forte ma è straforte, perché Matteo Renzi ha di fatto messo nell'angolo tutti i suoi alleati di governo, quindi a questo punto ha l'obbligo di governare in maniera molto forte. E insomma, questo scampato pericolo di un testa a testa o addirittura di un sorpasso di Grillo, che era il vero spauracchio dei mercati, stanno facendo da traino all'Italia sui mercati finanziari. Però se la passa bene anche Francoforte, che già viaggiava bene e questa mattina ha ritoccato un nuovo record storico sul DAX 30, sul principale paniere della borsa tedesca. Roberto Brasca, come gestore di fondi di investimento, voi stamattina cosa state comprando? Noi non stiamo facendo niente, nel senso che noi abbiamo una gestione molto orientata al medio-lungo termine e quindi ci asteniamo da queste operazioni di breve periodo, così come non avevamo fatto quasi niente settimana scorsa e niente senz'altro venerdì. Oggi noi teniamo il posizionamento di lungo termine. Certo, prima nell'arrivo a queste elezioni avevamo rivisto o ritoccato un po' il portafoglio secondo dei criteri di gestione, per esempio avevamo venduto un po' di piccole capitalizzazioni che abbiamo visto facevano più fatica, avevamo corretto, sostituito alcuni titoli, ma noi facciamo poche operazioni più appunto di medio-lungo periodo. Per giudicare la reazione di oggi bisogna vedere qual è stato il punto di partenza. Noi siamo arrivati a queste elezioni con i mercati, che soprattutto credo dagli investitori esteri, il mercato italiano è stato venduto perché c'era una buona performance dall'inizio dell'anno, era un rischio inutile. Pensiamo a un investitore che è nell'Arizona o in California, cosa gli interessa essere investito in Italia alla vigilia di un'elezione che può dare un risultato strano. Oggi c'è, vuoi perché c'è una recupertura, vuoi perché c'è qualcuno che torna in borsa, una reazione ai prezzi che avevano scontato in parte una possibilità di un risultato meno favorevole. Oggi c'è questa reazione e guardando avanti penso che riassumeranno importanza delle tematiche più squisitamente economiche, come per esempio la riunione della BCE del 5 giugno. Esattamente, adesso scandaglieremo anche questo argomento. Intanto per la curiosità dei nostri ascoltatori che ce lo stanno chiedendo al 349-238-6666 vi indico i titoli che stanno facendo le prestazioni più forti: la Popolare dell'Emilia Romagna più 7,51%, Telecom Italia più 5%, Popolare di Milano più 5 punti, questo gruppo ha chiuso un aumento di capitale con successo venerdì scorso, UbiBanca più 3,90%, anche qua reazioni strane in un titolo bastonato per un'inchiesta giudiziaria partita nelle scorse settimane perché si stanno effettuando dei chiarimenti sul business del leasing, ma non solo, e oggi il mercato cancella completamente tutte le preoccupazioni legate alle inchieste giudiziarie che in questo caso riguardano UbiBanca ma anche altre società quotate nel principale paniere di Piazza Affari, e quindi si cancella tutto. Oggi si guarda il risultato elettorale, si premiano anche le banche molto bastonate per altre vicende nelle ultime settimane. Mediolanum più 3,74%, Atlantia più 3,51%, Monte dei Paschi oggi corre più 3,43%, Unicredit non c'è. Nessun titolo negativo sul principale paniere, quelli che guadagnano meno sono Tenaris, che comunque insieme a Moncler porta a casa oltre mezzo punto percentuale, Exor Holding di casa Fiat più 0,8% e poi rialzi di un punto per Buzzi, Unicem, Eni e Campari. Effettivamente, Salvatore Gazziano, ti chiedo un commento su questo risultato elettorale che cancella tutte le inchieste degli ultimi giorni. Sì, diciamo che anche questo non voglio fare il profeta di sventura, però diciamo che la reazione di oggi del mercato italiano, che è sicuramente anche nettamente più forte delle altre borse, è dovuto anche a un effetto ricopertura, perché ricordiamo che nelle scorse settimane Piazza Affari si era molto indebolita e soprattutto il settore bancario era quello che aveva mostrato più segni di debolezza, e dalle urne si aspettava sì una vittoria magari di Renzi e del suo PD, ma di misura, e quindi molti operatori, anche speculatori a ribasso, si erano messi al ribasso appunto su Piazza Affari, quindi questa mattina sono stati obbligati a ricoprirsi. La reazione di oggi del settore bancario, quindi io la leggo anche in parte per effetto di queste manovre, ma sarei un pochino cauto a pensare che tutto è scomparso, tutto è risolto, e soprattutto alcune delle vicende di queste banche o di compagnie di assicurazione, come lo scandalo Unipol, ma che poi è scandalo anche Consob, è bene ricordare, perché anche lì andrà a essere fatta molta maggiore chiarezza sulle decisioni della commissione di controllo. Non credo che con questo voto, almeno spero, si passi sopra tutte queste inchieste, che meritano invece da parte dei risparmiatori assolutamente di vedere una verità più giusta e non una verità mascherata. Roberto Brasca, torno da lei, soffermandoci ancora per un attimo al settore bancario, che questa mattina ha le ricoperture degli investitori, come diceva lei, dell'Arizona o della California e non solo. C'è anche naturalmente la discesa molto dirompente dello spread, che ha toccato anche 159 punti base, comunque livelli che nelle scorse settimane, un paio di mesi fa, aveva rivisto per poi ritornare a preoccuparsi e ad aumentare di nuovo, era di nuovo toccato 190 punti base. Insomma, spread e banche, la relazione è sempre quella, ma secondo lei appunto anche questa reazione dello spread come va interpretata? È sempre tutto legato alle prossime iniziative della Banca Centrale Europea, quelle del 5 giugno, oppure abbiamo anche una componente politica sull'andamento del differenziale fra Italia e Germania? Anche se poi stamattina, e lo segnalo, l'articolo di Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore, che ha suggerito in realtà andiamo un po' a controllare cosa succede nel differenziale fra l'OAT francese e il Bund tedesco, che comunque è abbastanza tranquillo, tutto sommato l'avanzata della Le Pen non ha preoccupato ancora particolarmente, sembra. Brasca. Sì, sì, infatti questo è proprio centrato in pieno, è l'altra parte della questione, l'altra faccia della medaglia che fa salire il mercato azionario è proprio la reazione dell'andamento dei tassi. Oggi, come c'è un sollievo sul mercato azionario, c'è soprattutto sollievo sulla parte obbligazionaria, perché chiaramente un euro unito, un euro confermato fa bene al discorso tassi, e quindi questo è uno dei principali motori che spinge al rialzo il mercato azionario, e segnatamente le banche, che hanno molti titoli di Stato in portafoglio. Ovviamente con la discesa dei tassi, l'aumento dei titoli obbligazionari, si dilatano il valore dei portafogli delle banche. Oggi la tematica è politica ed economica, perché giustamente, come ha messo lei in rilievo, da un lato c'è l'agenda della BCE, ma noi dal punto di vista domestico abbiamo un'agenda politica che deve assolutamente occuparsi della risoluzione del problema del debito pubblico. Non dimentichiamo che noi abbiamo avuto dei momenti, e forse stiamo ancora vivendo dei momenti di emergenza, anche se non lo percepiamo nel giorno per giorno, perché insomma il rapporto debito pubblico su PIL, rispetto a quando lo spread stava sopra 500, si è dilatato il rapporto debito PIL, peggiorato, e quindi oggi che politicamente dovrebbe essere un po' più semplice formare un governo, bisogna che questo governo si occupi del PIL, strutturali che spingano il PIL più che cercare di ridurre a tutti i costi il debito con imposizioni fiscali che alla fine drenano la crescita. Quindi secondo lei, per esempio, soffermandoci ancora a Piazza Affari, di quali decisioni ha bisogno che prenda la Banca Centrale Europea il 5 giugno? Sappiamo che probabilmente interverrà ancora sui tassi di interesse, ma anche su politica, anche con politiche non convenzionali, come per esempio azzerare gli interessi dei depositi appunto bancari, che potrebbe spingere ancora le banche a sostenere di più l'economia reale. Poi che cos'altro a suo avviso? Quindi che cosa dovremmo vedere ancora la settimana prossima? Qui adesso fare una previsione ovviamente è impossibile. È vero che l'Europa è l'unica che non ha proceduto con misure di emissione della moneta definitiva rispetto all'LTRO, rispetto a quello che hanno fatto gli Stati Uniti, il Giappone, l'Inghilterra, quindi è l'unica che manca all'appello. Dipenderà un po' dai dati economici, dipende da quante munizioni vuole usare e può usare il governatore Draghi. È ovvio che il mercato azionario vorrebbe tutto subito, cioè per il mercato azionario ogni misura di rilascio monetario, che sia il quantitative easing piuttosto che operazioni straordinarie sui tassi, farebbe piacere nel breve periodo, ma ovviamente sul lungo è la cura alla struttura di conti pubblici più in ordine che determinerà il trend di lungo termine. Allora io posso avere un sollievo da una manovra eccezionale della Banca Centrale, ma come dico eccezionale, è una misura di emergenza. Noi avremo bisogno finalmente di misure stabili che riformino e che diano un respiro un po' più profondo alla tenuta dei conti pubblici. Salvatore Gazziano, ritorno da te. Intanto segnalo ancora gli ascoltatori che stanno cercando di intervenire, qualcuno ci chiama, poi non rispondete al telefono. Ci piacerebbe appunto sentire le vostre considerazioni sul tema che stiamo affrontando per questi pochi minuti, in attesa dell'inizio della conferenza stampa di Matteo Renzi. Tornerei a Salvatore Gazziano per chiedergli se, monitorando la seduta di borsa come sto facendo io in questo momento, si segnalano anche altre storie interessanti oltre alla reazione delle banche in risposta al risultato elettorale. Peraltro l'avanzata della Le Pen a Parigi, che poteva anche avere un riverbero sugli altri mercati internazionali, pure non c'è stato. Non so se è interessante valutare questo punto, Salvatore. Ma diciamo sicuramente il risultato francese è stato quello più che ha messo in movimento diciamo il fronte dell'area non euro, che poi in alcuni altri paesi, tranne appunto Francia e in parte l'Inghilterra, non si è visto con questa forza. Diciamo che i mercati in questo momento, comunque, come ha ben detto il gestore precedente, in realtà sono molto interessati a quello che succederà il 5 giugno dalla decisione di Draghi, perché di fatto i mercati vengono comandati dalla liquidità e dalle masse monetarie, dalle decisioni di politica monetaria appunto, e quindi quello importerà, e comunque diciamo a livello di Parlamento europeo la vittoria in Italia del PD, ma comunque diciamo di una maggioranza comunque pro euro, non dovrebbe cambiare più di tanto diciamo quello che è il risultato venuto fuori. Diciamo, a livello di singoli titoli, sicuramente oggi quello che si è visto è anche diciamo il tornare diciamo in attenzione di alcune società che in questo momento la cui ci si aspetta, anche magari con la complicità o l'assenso del nuovo governo, una sistemazione. Penso per esempio al caso di Telecom Italia, che oggi comunque recupera in maniera molto forte sul 5% di rialzo. Ci sono anche altre vicende, certo. Esatto, tra altre vicende dove sicuramente qua c'è da aspettarsi un qualcosa che riguarda anche un po' le riforme anche strutturali di questo paese, perché se questo paese non investe, non fa riforme, è indubbio che l'economia domestica sicuramente non è infatti, no, ma prima, quando infatti Roberto Brasca commentava la questione del rapporto deficit-PIL, è proprio nella parte sotto di questo rapporto che deve agire questo paese. Rush finale, proprio in corner, il commento di Manuel dalla provincia di Venezia, che raccogliamo rapidamente. Manuel, sì, grazie. Buongiorno, grazie a voi, mi scuso perché avete tentato di chiamarmi, ma il telefono mannaggia, ci piaceva la sua osservazione, Manuel, ce la faccia rapidamente, grazie. Ma che non riesco a leggere comunque bene il dato delle borse, che sono in rialzo per il semplice fatto che secondo me i risultati politici di queste elezioni danno indicazioni anche molto contrastanti e contraddittorie. In realtà poi il rialzo è generalizzato, anche pensando che i mercati premiano sempre l'innovazione piuttosto che la rivoluzione. Però faccio fatica a comprendere il fatto che si siano spostati verso l'alto all'unisono, quando invece secondo me ci potevano essere risultati contrastanti. Ecco, non so se ho fatto un intervento fuori tempo, perché magari avevate fatto questa riusciamo però a raccogliere il commento di Roberto Brasca, che lo farà in 30 secondi, perché c'è Simone Spezia qua vicino a me che subito vuol dare la linea giustamente a Matteo Renzi. Brasca, ha ragione Manuel in questa sua perplessità? Ma brevissimamente, come dicevo prima, dipende dal punto di partenza. Siccome i mercati avevano in parte scontato un risultato peggiore, si riaggiustano, certo, e poi si riazzera il contachilometri e si riparte con infatti, anche perché la le società sono sempre notizia marginale. Benissimo, io ringrazio Roberto Brasca per essere stato con noi, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buonasera. E Salvatore Gaziano, che ritorna anche al suo lavoro, buona giornata Salvatore, a presto. Grazie a voi. Questo microscopico speciale sui mercati termina qui, fra un po' la conferenza stampa di Matteo Renzi, lascio il microfono a Simone Spezia, a tutti, buona giornata.